Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Novembre e dicembre del 1860. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura una notizia che abbiamo appena ricevuto e che era molto attesa: sono i risultati del plebiscito per l'annessione al Piemonte, plebiscito che si è tenuto nel Regno delle Due Sicilie. Ebbene, il plebiscito si è svolto, lo ricordiamo, il 21 di ottobre. I favorevoli all'annessione all'Italia sono stati 1.300.000 e contro l'annessione sono stati 10.000. In Sicilia ci sono stati 432.000 favorevoli e contro l'annessione 667. Nel frattempo a Napoli è arrivato Vittorio Emanuele II. Non è finita bene tra Vittorio Emanuele e Garibaldi. Per la gioia del conte di Cavour, che non ha mai amato il Nizzardo ma lo ha sempre rispettato, il 9 novembre il generale si è imbarcato sul vapore Washington e se n'è tornato a Caprera. Aveva chiesto di mantenere la luogotenenza sul sud per un anno. Non gli è stato concesso. Onorificenza e doni li ha rifiutati. Intanto re Vittorio Emanuele II, dopo aver saputo dei risultati schiaccianti del plebiscito e dopo lo svolgimento di quelli di Umbria e Marche, è entrato a Napoli. C'era una pioggia torrenziale ed è andato tutto male. Il corteo che doveva accoglierlo ha sbagliato stazione, la carrozza era scoperta, gli archi trionfali erano disfatti da vento e pioggia. Il vescovo è stato quasi travolto dalla folla. Sul sagrato della chiesa c'è stata una grande rissa tra coloro che volevano baciare la mano al sovrano. Lui è stato di umore pessimo per un po', poi si è trasferito a Capodimonte dove lo aspettava la Rosina. A Napoli ha anche dovuto baciare l'ampolla con il sangue di San Gennaro. Si è sciolto, per fortuna, al quinto tentativo e la folla ha esultato per il miracolo. Fratelli e sorelle, qui va il grande annunzio. A dicembre il re è andato a Palermo. Anche qui problemi perché non ha gradito l'omaggio della popolazione che ha staccato i cavalli per trainare la carrozza. Dice che è roba da incivili, non sono un cantante né una ballerina, ha protestato, e voglio che gli uomini facciano gli uomini e non le bestie. Per tornare a Torino ha fatto in un lampo, 3 giorni passando per l'Abruzzo. Paolo Piacenza al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. E prima di chiudere, un'altra notizia appena arrivata e che arriva dagli Stati Uniti. Abraham Lincoln è stato eletto presidente degli Stati Uniti d'America sotto le insegne del Partito Repubblicano. Gli effetti si sono fatti sentire subito, dato che il neopresidente è un acceso sostenitore della necessità di abolire la schiavitù. La South Carolina ha deciso per la secessione e altri stati del sud, dove ci sono circa 4 milioni di schiavi, stanno pensando ad un'azione simile. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Andate sul nostro sito www.radio24.it e scaricate il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie. Lasciateci un commento sulla nostra pagina Facebook oppure a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.